Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro tredicesimo, versi 675-966. Rasa al suolo Troia, i pochi superstiti agli ordini di Enea e tutelati dalla saggezza del vecchio Anchise sono approdati a Delo. E a loro, Anio, ospitale re sacerdote dell'isola, ha appena finito di raccontare la tristissima storia delle sue figlie, mutate in colombe dalla pietà di Apollo. Riempita la cena di questi discorsi o discorsi del genere, si alzano tutti da tavola e se ne vanno a dormire. All'alba si levano e recansi a consultare l'oracolo di Febo, che ordina loro di cercare l'antica madre e la terra d'origine. Il re li accompagna e li copre di doni. Uno scettro ad Anchise, mantella e faretra per suo nipote, a Enea un cratere speditogli da certo Tersete, a suo tempo, dalle rive del fiume Ismeno nella lontana Beozia. Se a spedirlo era stato Tersete, a fabbricarlo era stato un alcone e lo aveva istoriato ad una lunghissima storia. Contrassegnata da 7 porte, c'è una città. A identificarla basta il numero delle porte, davanti alla quale esequie, tumuli, fuochi e roghi e madri di famiglia scarmigliate, coi seni scoperti, denunciano una catastrofe. Si vedono ninfe che piangono disperate sulle sorgenti asciutte, irrigiditi vedi alberi senza una foglia, caprette che brucano sassi. Ed ecco al centro di Tebe figurate le figlie di Orione, questa che virilmente offre al ferro il collo, quella che si rassegna a lasciarsi piantare in gola la lama, e cadono per il popolo e per la città le trasportano in sontuosissime esequie e in un mare di folla le cremano. Da quella brace di vergini, perché non sparisse la stirpe, spuntano 2 ragazzi, le famose corone, e si mettono alla testa del funerale delle ceneri che li han generati. Fin qui le smaglianti figure istoriate nel bronzo antico. A sbalzo sul bordo il cratere porta foglie d'acanto dorate. E non sono da meno i troiani nel corrispondere ai doni. Al re sacerdote regalano un turibolo per l'incenso, una patera ed una corona scintillante d'oro e di gemme. Di là, ricordandosi i teucri di trarre le proprie origini da Teucro, mettono le prue su Creta, ma poco resistono a quel cielo, a quell'aria, e abbandonano le 100 città dell'isola nella sola speranza di approdare in un porto d'Italia. La tempesta sbatacchia i nostri e nell'infido rifugio delle strofadi li terrorizza Aello, la donna uccello. E han già doppiato il porto di Dulichio, Itaca e Samo, indi il palazzo di Nerito, regno di Ulisse l'ipocrita, e Ambracia vedono, oggetto di contenzioso fra dei, e la rupe che in pietra conserva il profilo di chi pronunciò la sentenza, oggi famosa, per il tempio di Apollo Aziaco, e Dodona vedono, celebre per la sua quercia parlante e la baia della Caonia, dove i figli del re dei Molossi misero tanto di ali per sottrarsi a un incendio sacrilego. Poi guadagnano le campagne dei Feaci, lussureggianti di frutteti, e ancora l'Epiro e Butroto, regno di Eleno, l'indovino troiano, che in piccolo ha riprodotto Troia. Di lì, sicuri di quel che li aspetta, in base ai pronostici dell'infallibile figlio di Priamo, gettan le ancore in Sicilia. Sicilia che sporge sul mare, diciamo, 3 lingue, delle quali l'una, Tachino, punta al piovoso scirocco. L'Ilibeo si espone ai tepori del Ponentino, Peloro fronteggia la tramontana e le orse che non tramontano. È qui che i teucri accostano e, a forza di remi, nel flusso della corrente, attraccano a zancle sul far della notte. A destra Scilla imperversa, a sinistra imperversa Cariddi insaziabile. Questa cattura le navi, le ingoia e le vomita. La prima, che ha un lurido ventre cintato di cani feroci, ebbe un viso virgineo. E se è vero che i poeti non ci raccontano solo sciocchezze, in effetti a suo tempo fu una fanciulla. Pretendenti ne aveva bizzeffe, ma lei li trattava malissimo e, prediletta com'era dalle ninfe del mare, alle ninfe del mare veniva a contare gli smacchi dei suoi spasimanti. Finché un giorno, che si lasciava pettinare da lei, Galatea se ne uscì con queste parole, tempestandole di sospiri. «Te almeno, ragazza mia, ti desidera gente civile, che tu impunemente puoi permetterti di rifiutare. Io invece, figlia di Nereo, messa al mondo da Doride azzurra, per quanto mi spalleggiasse un esercito di sorelle, non ho potuto sottrarmi agli amori del brutto ciclope, se non a carissimo prezzo, e il pianto le strozza la voce. Col suo pollice bianco marmo le asciuga le lacrime Scilla e, per consolare la dea, racconta, carissima, dice, puoi fidarti di me, non nascondermi il perché di tanto dolore. La Nereide risponde a Scilla di Crateide con questo racconto. Aci, nato da Fauno e da una ninfa, figlia del fiume Simeto, era tutta la delizia di mamma e papà, ma ancora di più la mia. Mi piaceva lui solo, ero sua. Bellissimo, aveva compiuto i 16 anni da poco che una dubbia lanugine gli segnava le tenere gote. Ero pazza di lui. Il ciclope era pazzo di me. Vuoi sapere se in fondo all'anima più violento covassi il rancore per il ciclope o l'amore per Aci? Non saprei dirtelo. Facevano a gara. Ah, quanto è potente la tua dittatura, Venere mia, se perfino quel mostro che terrorizza anche i boschi, lui che nessuno straniero ha mai visto senza rischiare la pelle, lui che disprezza gli dèi dell'Olimpo, ha provato l'amore e, bruciando d'una folle passione per me, dimenticava i suoi greggi e i suoi antri. E non pensi oramai che a farti bello vorresti piacere e basta. Oramai ti pettini col rastrello, Polifemo, i capelli di stoppa. Ti compiaci di farti la barba con una falce e sei sempre lì che ti specchi nell'acqua per ripulirti quel ceffo. La mania di ammazzare è sparita. Sparita la sconfinata sete di sangue, le navi vanno e vengono senza problemi. A quei tempi un Telemo, figlio di Eurimide, che era sbarcato in Sicilia ai piedi dell'Etna, infallibile nel decifrare i voli d'uccello, abbordò Polifemo. Quell'unico occhio che ha in mezzo alla fronte gli fa: «Te lo porta via Ulisse, vedrai». Lui ci ride, ti sbagli, risponde, stupidissimo fra gli indovini, me l'ha già portato via un'altra. E di quel pronostico giusto si dimentica subito, sia che misuri la spiaggia schiacciandola con gli enormi piedoni, sia che sfinito rientri nell'antro. C'è un rilievo che si protende nel mare con la sua punta acuminata, da un lato e dall'altro le onde lo sciacquano. Qui sale il feroce ciclope e si accoccola sul crinale. Il gregge, lasciato a se stesso, gli va dietro lo stesso da sé. E lui, poggiatosi ai piedi, il pino di cui si serviva come bastone, un albero da reggere vele e pennoni, mette mano alla sua zampogna dalle 100 canne. Quel giorno tutti i monti ascoltano quella pastorale di fischi, la ascolta tutto il mare. Io stavo nascosta quel giorno sotto una roccia stretta stretta in braccio al mio aci e da lontano mi arrivano all'orecchio queste parole, me le ricordo a memoria. Più candida è Galatea d'un petalo di ligustro, più fiorente dei prati, più alta e slanciata d'una betulla, più scintillante del vetro, più briosa d'una capretta, più liscia d'una conchiglia strofinata dal mare su e giù, più preziosa del sole d'inverno, più preziosa dell'ombra d'estate, più nobile d'una palma, più vistosa di un platano grande, più splendente del ghiaccio, più dolce dell'uva matura, più morbida delle piume d'un cigno e del latte cagliato, e se non mi scappi, più bella di un bel giardino annaffiato per bene, ma al tempo stesso è peggio d'un toro infuriato, è molto più dura d'una vecchia quercia, più falsa Galatea delle onde del mare, più viscida dei ramoscelli del Salice e della Vitalba, più cocciuta di questi scogli, più violenta di un fiume, più vanitosa d'un bel pavone, più aguzza del fuoco, più spinosa d'un rovo, più aggressiva di un'orsa che allatta, più distratta del mare, più furiosa d'un serpe pestato e poi, proprio questa è la cosa di cui sognerei di guarirti, più rapida nello scappare di un cervo braccato da cani che latrano, o meglio, del vento quando vola a rotta di collo. Ah, se mi conoscessi delle fughe e del tempo sprecato, ti pentiresti e faresti di tutto per stare con me. Posseggo un pezzo di monte e una grotta scavata nel vivo della roccia, che quando si crepa dal caldo tu non lo senti e non senti il gelo d'inverno. Ho talmente tanta frutta che mi penzola giù dai rami, ho uva appesa in lunghissimi filari che sembra d'oro o di porpora. Tutto per te. Coglieresti con le tue mani nell'ombre del bosco fragole che si squagliano in bocca e d'autunno corniole e prugne, non solo quelle un po' viola che fanno quel succo un po' nero, ma anche le più pregiate che sembrano cera novella. E se mi sposi vedrai, non ti mancheranno castagne o corbezzoli, tutte le piante al tuo servizio, vedrai. E tutte le bestie che vedi sono mie, ma ne ho molte di più nelle valli a brucare o nel bosco o al riparo dentro alle grotte. Tante che se me lo chiedi non so dirti quante, è da poveri contare le pecore. Belle? Non chiederlo a me, non pretendo che tu mi creda. Perché non ti vieni a vederle da te le poppe che non gli stanno fra le zampe, da tanto son gonfie? E non sai gli agnelli che ci ho nei loro ovili calducci e in altri ovili capretti della stessa identica età? Totale, ho sempre il mio latte bianco come la neve, parte che me lo bevo, parte da farci il formaggio. E non che avrai di regalo soltanto bestiole ordinarie sul genere di cerbiatti o leprotti o roba del genere, o due piccioni o magari un nido che sta in cima a un albero. Ho scovato sulle montagne due cucciolotti di un'orsa pelosissima, uguali talmente che non li distingui e potrebbero, pensavo, giocare con te. Non ho fatto in tempo a scovarli che mi son detto, questi me li tengo per la signora. Dai, cacciala fuori dall'acqua azzurra, la tua testolina bella. Dai, Galatea, non schifare i miei regalini. Mi conosco. Sì, l'altro giorno mi son visto dentro uno specchio d'acqua tranquilla e a vedermi mi sono proprio piaciuto. Guardami quanto sono. Giove in cielo non è grosso altrettanto. Vi sento parlare sempre di questo Giove che regnerebbe sul mondo. Ho una foresta di capelli che mi fanno ombra sul muso e sopra le spalle. Se ho il corpo coperto di setole fittissime e dure, non deve farti orrore. Fa orrore un albero senza foglie. Fa orrore un cavallo che non abbia il collo coperto d'una bionda criniera, calvo. Gli uccelli han tanto di piume. La lana è il bello dei greggi e agli uomini dona la barba, come donano i peli sul corpo. Ho un occhio solo nel mezzo della fronte, ma un occhio che sembra un enorme scudo, che il sole dall'alto del cielo non vede l'universo intero. E quanti occhi ha questo sole? Ne ha uno. Aggiungi, mio padre è il re del mare dove abitate, te lo do per suocero. Basta che tu ascolti le mie preghiere e abbia un pizzico di pietà. Per te sola mi metto in ginocchio. Io che Giove, il cielo, il fulmine puntuto, non mi spaventano. Mi fai spavento tu sola. La tua stizza è peggio del fulmine. E ancora i tuoi rifiuti porterei più pazienza se tu rifiutassi tutti. Perché? Perché respingi un ciclope e ami un aci e ti piacciono più i baci di aci dei miei? Che lui si voglia un gran bene, passi. Che tu gliene voglia, Galatea, mi dispiace, ma passi. Purché non mi venga a tiro, se no glielo faccio vedere che son forte quanto son grosso. Le budella gli cavo e i pezzi di corpo li spargo nei campi e nel tuo mare. Vedrai che bello abbracciarlo così. Vado a fuoco e lui, più lo ostacoli, più spaventevole brucia, e mi sento come se l'Etna, con tutta la sua prepotenza, mi fosse entrato nel cuore. E tu, Galatea, te ne freghi. Lamentatosi invano così, si alza, io tutto osservavo, e come un toro furente che gli hanno rapito la vacca, non può star fermo e scorrazza per boschi e pascoli noti, quand'ecco l'ultima cosa che ci aspettavamo, la bestia ci vede, aci e me. Vi ho visto, urla, e tanto farò che questo sarà per voi due l'ultimo incontro d'amore. La voce era tanta quanta da un inferocito ciclope è giusto aspettarsi. A quell'urlo è rabbrividito anche l'Etna. Spaventatissima, io mi tuffo nel mare vicino. L'eroico nipote del fiume Simeto intanto scappava gridando: aiutami, aiuto Galatea, aiuto papà e mamma, visto che debbo morire, prendetemi in casa. Lo tallona il ciclope e, staccato un bel pezzo della montagna, glielo tira dietro e quantunque giusto una scheggia di pietra raggiunga il povero aci, basta per seppellirlo. Allora noi che facciamo? Tutto quel che permette il destino. Facciamo che Aci recuperi l'energia naturale del nonno. Dalla mole del masso scola un sangue scarlatto, ma quasi subito quel colore comincia a svanire e diventa quello di un fiume torbido per l'arrivo del temporale. Poi si fa sempre più limpido e alla fine il macigno si crepa e dalle crepe sbucano canne vivissime e alte e acqua gorgoglia e spruzza nella bocca aperta del sasso e... miracolo! All'improvviso sbuca fino alla cintola con due corna spuntate appena e inghirlandate di canne un ragazzo che, se non fosse più grande e azzurro di faccia, sarebbe Aci, ma anche così, fatto fiume, era Aci e di Aci da quei lontanissimi tempi il nome conserva. Galatea ha finito il racconto e tace. Il crocchio si scioglie, si disperdono le Nereidi a nuoto sulle acque tranquille. Anche Scilla, ma lei non si fida d'avventurarsi in mare aperto e nuda com'è, passeggia sull'arenile assetato o, per quando è stanca, si è trovata una baietta appartata e lì si ricrea nel fresco dell'acqua bassa. Ed ecco, fendendo i flutti, nuovo inquilino dei mari, Glauco, da poco cambiato di corpo, ad Antedone in faccia all'isola Eubea, che si pianta impalato dal desiderio di lei e le dice qualsiasi cosa immagina possa convincerla a non fuggire, ma sulle ali della paura lei fugge e guadagna la cima di un monte a picco sul mare. Lì si apposta al sicuro e, ignorando se quello che vede sia un mostro o un dio, sbalordisce del colore e dei lunghi capelli che gli coprono le spalle e gli scendono giù per la schiena e del fatto che al di sotto dell'inguine termini nella spirale d'un pesce. Se ne accorge Glauco e, appoggiandosi a un macigno a portata, non sono il mostro che pensi, le spiega. Non sono una bestia feroce, sono un dio del mare, bellezza, e sui mari non han più potere del mio né Proteo né Palemone né Tritone. Prima però ero un uomo, ma il mare, diciamo così, era già la mia vocazione e già campavo sul mare. O tiravo le reti che al meglio si tiravano dietro i pesci, o seduto su un sasso il filo manovravo della mia lenza. C'è una spiaggia ai margini estremi d'un prato verde, bordata in un senso dalle onde, nell'altro senso da un'erba che nessuna mucca cornuta ha mai sciupato brucando. E nemmeno voi, pecorelle e irsute caprette, mai ape laboriosa ha succhiato polline dai fiori di lì, con i quali non è mai stata intrecciata una qualche ghirlanda, mai mano è passata di lì col falcetto. Io per primo mi son seduto su quel prato a farci asciugare le reti bagnate e, tanto per contare bene i pesci pescati, li schiero in bell'ordine sull'erba, sia quelli incappati nelle reti per puro caso, sia quelli che per dabbenaggine hanno abboccato all'amo. Sembra che invento, ma cosa mi servirebbe inventare? Al contatto dell'erba i miei pesci prendono a dimenarsi serpeggiando sopra il terreno come se fossero in acqua. Mentre son lì che trasecolo, l'intera brigata si tuffa nel suo mare, piantando la spiaggia e il nuovo padrone. A bocca aperta son lì che mi chiedo la causa, se è stato un dio o il succo dell'erba a provocare il prodigio. Ma come fa un'erba, mi dico, ad avere un potere del genere? E strappo un ciuffo d'erba, lo metto in bocca, lo mastico. La gola m'ha appena assorbito quel misteriosissimo succo che sento balzarmi nel petto il cuore in subbuglio, sedotto da una passione impetuosa di cambiare vita e natura. E non mi trattengo, e terra, non mi vedrai mai più, grido, addio, terra, e mi tuffo nell'acqua, e nell'acqua sparisco. Gli dei del mare mi accolgono e mi fanno l'onore di assumermi fra loro e pregano oceano e temi di togliermi quanto di mortale mi resta. Io mi lascio purificare da loro e, recitata la formula 9 volte che lava ogni scoria, mi comandano di sottopormi al getto di 100 fiumi. Un attimo, e scatenatisi da tutte le parti, mi rotolano sopra la testa i fiumi in una valanga d'acqua. Altro non potrei dirti dell'incredibile storia. Giusto questo ricordo, che a quel punto ho perso coscienza. Recuperata la quale, mi sento tutto diverso da poco prima, e non solo nel corpo, anche nell'anima. Per la prima volta fu allora che mi accorsi di questa barba verde rame e di questi capelli che mi trascino nei mari, di queste spalle enormi e di queste braccia celesti e delle gambe che in fondo mi si avvolgono in coda di pesce. Ma di questo aspetto, o del favore divino, o dell'essere io stesso un dio, che ci faccio? se non sai che fartene tu. Questo dice il dio marinaro e continuerebbe se Scilla, mentre lui parla, non riscappasse e Glauco, furente, punta al palazzo incantato di Circe, la figlia del sole. Quella che abbiamo appena ascoltato è la 36esima puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce in cui ascoltiamo le Metamorfosi Ovidio, edizioni Rizzoli, tradotte e lette da Vittorio Sermonti, l'ingegnere del suono, e Matteo Bolzoni. Questa, appunto, vi dicevo, è la 36esima puntata. È un programma dentro Ad Alta Voce che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Sarà riascoltabile in streaming solo per il periodo della messa in onda, solo in questo periodo, appunto, quindi non sarà ascoltabile in podcast. Allora, appunto, Metamorfosi Ovidio, Sermonti.